mai arrivato bene i bomboli? Ma io tra lui e me non ho molto differenza, quindi non posso dire nulla, non so se quanto abbia perso. KK, no, qui è molto basso, molto molto basso. Non lo so. Tutto a posto, Pierpa? Io controllo, ma non vedo niente di strano. No, sempre, adesso si rinnovo Santiago 2, sull'S9. E Santiago 2 sei anche tu. E capo. Avanti, non sei uscito di radio. No, c'è ora di cuffi. Cappa, adesso ti coppio. Giuseppe da questa parte in compagnia di Vela 1 e di Bombolo, Cappa. Attenzione l'amico, non sei di nuovo uscito di radio, controllati il microfono, i collegamenti del microfono, Cappa. Niente da fare, c'è il segnale ma non c'è la voce. Allora sembra che ho capito che sia Leone. E uno di questi giorni ci alziamo a colare per assassi. Oh no, è finito. Domani iniziamo 38 gradi e spacca anche quasi uccellini in cambio. Beh, tu no. Sì che mi li rimarrà ne avvio.